La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un altro sabato agostano insieme qui a parlare di cinema e come sempre con un'intervista che introduce poi invece l'ora di cinema settimanale di attualità qui su Radio 24. Intervista che è l'ultima di questo ciclo, di questa estate. Siamo stati insieme con i più grandi uomini di cinema, alcuni fra i più grandi uomini di cinema, da Michael Cimino a Bernardo Bertolucci a Giuliano Montaldo. Oggi tocca un attore ed è un attore che mi sta particolarmente a cuore perché l'ho apprezzato dall'inizio, da quando ho cominciato insomma a fare questo mestiere, a seguire i suoi film, che non erano i propri primissimi, perché ha qualche anno più di me, anzi facciamogli subito gli auguri perché gli anni li ha compiuti da pochi giorni. Un saluto a Luca Barbareschi. Buongiorno, grazie. Allora Luca, io ho cominciato 55 insomma, anni. Parafrasando Moretti, uno splendido cinquantenne potremmo dire. Io ho fatto il primo incontro con il cinema di Luca Barbareschi in un film che mi era veramente rimasto addosso, ed è stato Romance di Massimo Mazzucco. Era il 1986, ormai anche lì i suoi bei 25 anni fa. C'era un Walter Chiari al crepuscolo straordinario. E questo era stato il primo incontro con un attore che ho detto: ma guarda che bello spessore, guarda che bella intensità che c'è in questo film. Allora io partirei proprio da lì, Luca, con questo nostro racconto, con questo nostro excursus nella carriera attoriale di Luca Barbareschi, per raccontarci anche quel rapporto, che cosa si era creato sul set con quello straordinario uomo di spettacolo che era Walter Chiari. Ma diciamo, quello era il secondo film che avevo scritto con Mazzucco. Avevamo fatto Summertime, comunque avevamo vinto Venezia, il Festival Venezia l'anno prima, e abbiamo cercato di doppiare, diciamo, il successo con Romance, e avevamo scritto una storia di un rapporto padre-figlio. Era un anno curioso, perché generazionalmente molti hanno tentato di fare una storia del genere. Cioè, Verdone ha fatto un film con Sordi, che era un po' il suo riferimento culturale, cinematografico e anche dal punto di vista insomma, della romanità, eccetera. Troisi lo fece con Mastroianni, con Scola, e io e Mazzucco, io diciamo che ho fatto l'attore che volevo fare Walter Chiari da ragazzino, cioè volevo, non sapevo neanche che volesse dire fare l'attore, ma andavo a vedere Walter Chiari in teatro ed ero in pazzo di questa sua capacità di stare con uno sgabello in scena e fare due ore di spettacolo così, magari su un tema solo, no? su una barzelletta che poi le ampliava in 10.000 sotto barzellette. E per cui scelsi lui per fare il mio padre nel film, e ovviamente lo trovai in una situazione molto disastrata, perché era un Walter già ferito da molte vicende della vita, era stato già in galera, era uscito, la sua carriera era in un momento molto basso. E per cui è stata, diciamo, un'avventura non solo di cinema ma di vita, perché Walter si è affidato talmente alle cure mie di Massimo Mazzucco, si è fatto tagliare i capelli a zero, facendo vedere i suoi capelli grigi, lui era tinto, no? Stentava un giovanilismo improbabile, e ha regalato, non so come dire, il film è stato un work in progress nella scrittura, con Walter che raccontava i suoi problemi di padre conflittuale con quello che era poi stato anche rapporto con suo figlio nella vita, e io raccontavo le mie cose, perché pian piano è nata questa struttura che è stata un'esperienza, credo, unica. Poi Walter aveva una grande forza, una grande generosità, per cui addirittura quando giravamo abbiamo dovuto buttare via chilometri di pellicola, perché a ogni tanto usciva dal seminato, però improvvisava delle cose bellissime che magari non erano utili però al film, e però era difficile arginarlo. Allora avevamo trovato un sistema, giravamo sempre con due macchine da presa, in cui io, il mio scopo era dire le mie battute che avevano scritto, ma riportarlo poi sul binario di quello che era la nostra conversazione, perché si improvvisava anche molto. Camminare per giorni e giorni nella foresta con l'angosciante sensazione di girare in tondo. Dormire sugli alberi per evitare di essere morsi dai serpenti e dalle migale. Le vedo venire. Ma Felipe, la nostra guida, giura che siamo ormai vicini al grande fiume. E lì c'è il villaggio degli Yakumo. Entreremo così in contatto con la prima delle terribili tribù dell'interno che praticano il cannibalismo. Beh, insomma, non c'è da crederci che dietro questa clip di Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato, 1980, ci sia Luca Barbareschi in uno dei suoi primi ruoli. Tra l'altro, Luca, all'inizio della carriera, un paio di stranezze, perché da Corleone a Brooklyn, che è stato forse l'esordio assoluto, c'era anche Mario Merola, insomma. C'era Mario Merola, ma c'è stato un film che in Italia è dimenticato più al manifesto, che si chiama Son of a Beach, che sarebbe figlio di Mignotte, tradotto nel... che è un film di Nino Marino, che è stato il mio vero debutto a 19 anni, e mi avevano preso, io vivevo in America da un anno ed ero entrato al suo studio, vennero a fare i provini e decisero di lanciarmi come il nuovo John Travolta. E nel film, infatti nel manifesto che io conservo gelosamente, io mi chiamo Frankie Speranza, perché dovevo essere il nuovo John Travolta italo-americano. Poi il film era un film on the road, anche molto divertente, di uno che inseguiva una fidanzata da New York a Los Angeles, un po' sulla riga di quel film bellissimo scritto da Sonne con la ragazza con la pistola. Io ero il ragazzo con la pistola che inseguiva un amante che era scappata, e mi chiamarono Frankie Speranza. Io in realtà mi ribellai, poi feci causa alla società che non c'è più, perché non potevo venire in Italia e fare finta di non poter parlare, perché io, i miei genitori vengono da Abruzzo e io amo molto quest'Italia. Però ci provarono e venni lanciato così. Dopodiché poi feci altre partecipazioni. Con Deodato ho fatto altri due film, ho fatto Inferno in diretta, sempre in Columbia, una storia di... e poi un'altra cosa non mi ricordo più. Beh, ma Deodato era famoso perché nei suoi film c'era una truculenza e un aspetto del particolare proprio più, diciamo, più efferato, che colpiva, sì, molto il pubblico, no? Si andava, sì, a vedere. Devo dire, Ruggero, Cannibal Holocaust è un film molto controverso, però oggi è un cult movie dei film, è stato copiato da The Blair Witch Project, no? Quel famoso film americano in cui si raccontava delle streghe, no? Che era, certo, tutto finto, tutto costruito, e come è successo anche a noi. Però devo dire, Deodato 30 anni prima ha avuto questa intuizione di inventare una specie di snuff movie dentro un film vero, dove si raccontava, dove non sapevi più la realtà e la finzione. Detto questo, Ruggero Deodato è uno dei registi più preparati in cui ho lavorato nella mia vita, cioè un uomo di una capacità tecnica, con tre macchine da presa e con una capacità visiva straordinaria. Poi lui credo sia un po' viziato e si è un po' buttato via in certi momenti. È un grande regista. Sei cambiato, hai... tu hai qualcosa di diverso, sì? Sì. In che senso? Ah, ti sei fatto crescere i baffi. Ah, sì? Come mi stanno? Sembro più vecchio, eh? No, no, non è che ti invecchiano, però... insomma, ti danno un'aria un po'... Poi non mi sono mai piaciuti gli uomini coi baffi. Soltanto senza. Cosa? Niente, niente. Come va con Marcello? Va. E tu come vai con... oh, scusa, come Lisa, si chiama? Lisa. Ah, sì, Lisa. Come va con Lisa? Bene, bene, grazie. Sono contenta. Sono molte quelle che vorrebbero rimanere chiusi in un'auto sotto la pioggia a Milano con Carol Alt. Luca Barbareschi in Bye Bye Baby c'è riuscito, ma è anche questo film, Luca, un altro pezzo della tua carriera, insieme per esempio a Via Monte Napoleone, ovviamente, insomma, questa commedia italiana che voleva raccontare, soprattutto con uno sfondo di una Milano, la famosa Milano da bere, voleva raccontare un po' questa uscita dai tempi cupi degli anni di Piombo, insomma, di un cinema per forza sempre tutto impegnato, ma che voleva un po' raccontare quello che si muoveva in quell'inizio degli anni Ottanta. E c'era quello, io ho fatto Bye Bye Baby, ho fatto Via Monte Napoleone, quell'anno feci 5 film grossi. Bye Bye Baby, Via Monte Napoleone, Teresa, Ti presento un'amica, che era nel mondo della moda, e un altro film, adesso mi sfugge, ed erano film che avevano anche dal punto di vista visivo una ricchezza diversa, una voglia un po' di intrattenere, oltre che punire il pubblico magari con dei film più cupi e più difficili. Secondo me non sono mai riusciti a trasformarsi in un prodotto realmente internazionale, come era un po' invece l'ambizione. E poi l'uso delle modelle al posto di attrici teneva il film un po' po' superficiali. Certo, un po'... meno Via Monte Napoleone. Via Monte Napoleone, secondo me, rivisto oggi, ha una sua... sì, un suo scopo anche fenomenologico, diciamo, no? Di raccontare... sì, anche la, non so, lì era, poi io facevo questo personaggio, questo giornalista gay, cioè riuscire a fare finalmente non la macchietta, ma raccontare un giornalista che aveva una storia d'amore con un altro uomo e con una madre, cioè la Valentina Cortese, molto opprimente, raccontava un po' così, Edipi felici, molto controllati dalle madri, che era un po' quel tipo di Milano, così. E, infatti sono film che tuttora quando vanno in televisione devo dire hanno un grande successo, per esempio Teresa, che ho fatto con Serena Grandi, con la regia di Dino Risi, ogni passaggio si fa sempre, io so, 2,5 milioni, 3 milioni di persone che lo guardano, perché hanno comunque una loro identità e spettacolarità. Ecco, proprio di Dino Risi volevo chiedere, perché è stato un altro grande maestro, tra l'altro quel film con la sceneggiatura del grande Bernardino Zapponi, che ricordo è rimasto, diciamo, di questo incontro con Dino Risi? Ma forse la prima battuta, quando mi scelse per fare il protagonista, mi guardò fisso, era molto simpatico, molto cattivo. Credo lui e Monicelli sono state le persone più dure del cinema italiano, più intelligenti, più simpatiche, ma anche molto ciniche. E mi disse: ti ho scelto perché hai il naso da caratterista, la bocca da generico e gli occhi da annunciatore radiofonico. E con questo distrusse la mia immagine narcisa di attore che mi sentivo. Un grande Dino Risi, effettivamente salace fino in fondo, ma insomma proprio questa è stata forse la perché sua... Perché c'è un famoso incontro, quando Monicelli, un poveraccio, è morto, o poveraccio, forse lo ha scelto anche come morire perché è uscito di scena come gli piaceva, ebbe un incidente, era completamente ingessato, e allora andammo a trovarlo con Dino Risi, e Monicelli proprio era tutto come nelle barzellette, cioè credo fosse un dito ingessato. Allora Risi arrivò e dice: ah, mi spiace, però dice, ti sei salvato purtroppo, potevi anche morire. E Monicelli ingessato l'ha guardato e fa: ma tu non eri morto l'anno scorso? Scusa, c'erano questi due vecchietti. Che si menavano. Così, in maniera abbastanza plateale. La rosa purpurea. Eccoci ancora insieme nelle interviste di questa estate della Rosa Purpurea. Ospite di oggi è Luca Barbareschi. Stiamo parlando... di un attore, stiamo parlando anche di un regista, però prima voglio fare una domanda a Luca, poi ne parleremo più diffusamente, però proprio in quel passaggio dopo i film di grande popolarità, Via Monte Napoleone, Bye Bye Baby, eccetera, c'è una collaborazione con Luigi Magni, con uno dei padri del cinema storico italiano, nel film In nome del popolo sovrano, quasi le prove generali della tua ultima interpretazione che è stata Noi credevamo. Beh, quello era un po' diciamo la scia dei grandi capolavori di Gigi, che erano Il nome del Papa Re, insomma, lui aveva molto a cuore quel periodo storico, poi fece La Carbonara anni dopo, ed è stato un film molto interessante, forse uno dei più degli ultimi investimenti un po' più da colossal per il cinema italiano, insomma anche un bel cast, a parte me. Ovviamente facevo uno dei protagonisti, c'era Manfredi, c'era Sordi, c'era Jacques Perrin, Elena Sofia Ricci, è stata una voglia di raccontare un pezzo dell'Italia in maniera non solo filologica ma anche spettacolare, con la mano di Gigi, che era un uomo molto spiritoso, mi prese molto in giro. Un anno dopo io feci delle foto nudo su Repubblica, che uscirono, c'era un grande fotografo americano che aveva fatto un servizio, e allora mi chiamò e mi disse: Barbare, fai l'attore e basta, e quando ti sposi manco ci avessi un puma fra le gambe. So che la tua età sono delle cose di cui bisogna parlare, no? Perché c'è un momento in cui cominciano a capire delle cose del sesso, non bisogna esagerare. Ricordati che alla tua età io, per non esagerare, mi facevo legare le mani al letto e rimanevo inchiodato, così non esageravo. Però è giusto che tu capisca il rapporto con le tue cose, con le donne. Ricordati che le donne non ti diranno mai la verità, sono tutte malate, tutte, mentono sempre. Tu le conti per strada, le guardi, 1, 2, 3, 4, 5, la settima malata, l'ottava anche, la nona le mestruazioni. Ti do 2 o 3 consigli, per esempio, quando vai con una donna ti porti sempre mezzo limone in tasca. La miretta, mezzo limone, un consiglio, non essere presuntuoso quando ti parlo, ti sto consigliando, no? Dritto per favore, stai su. Allora, mezzo limone lo tieni in tasca, quando arriva il momento giusto gli fai una spremutina sopra, al punto giusto, se lei reagisce vuol dire che ha delle feritine, allora è malata. Beh, questo devo dire che è un consiglio che forse ti sarai anche un po' pentito di aver dato. No, ma questo era, io avevo un padre meraviglioso, devo dire, purtroppo non c'è più, però aveva, era veramente, come era forse la vecchia generazione, imbarazzatissimo a parlare di sesso e di cose, e mi è rimasto fra i libri che mio padre aveva un manuale delle malattie venere degli anni dell'Ottocento con delle foto, una cosa che tu la fai leggere a un ragazzino e rovini la vita per sempre, perché c'erano delle immagini raccapriccianti, ovviamente tutte vere, però la statistica per cui potevi prendere una di queste malattie era veramente rara, ma questo non me l'hanno mai detto. E lui una mattina, in adolescenza, capì che si avvicinava al momento del sesso e, pensando di farmi una lezione di sesso, fece esattamente quello che poi ho messo nel film, cioè, sfogliando questo libro raccapricciante, con pusto, le cose, mi spiegava che il limone messo su delle ferite brucia, perché tu hai la certezza se una la sifilide. Quando ho fatto Ardena, che era poi il mio esordio da regista, scrissi una scena così che era molto divertente. Ecco, infatti Ardena era appunto il film che abbiamo sentito, l'esordio da regista, la voglia di raccontare stando dietro la macchina da presa, che poi è arrivata appunto anche fino al trasformista. Cosa ti ha spinto, diciamo, a passare al di là della cinepresa? Ma io lo facevo da sempre in teatro, diciamo, in teatro dopo due o tre episodi storie da attore, ho deciso a un certo punto di cominciare a dirigermi, ma era una necessità, per anche una questione di come io amavo recitare. Non riuscivo a trovare dei registi che fossero più esigenti di quello che ero io quando ero in scena, per cui ho cominciato a recitare e ho avuto subito molto successo come regista, poi facevo la regia anche per gli altri, per lo Stabile di Genova, per il Piccolo di Milano, per tante, una cinquantina di spettacoli, e a un certo punto ho voluto fare dei film come piacevano a me, sia dal punto di vista visivo, per cui girati con, diciamo, con un tipo di spettacolarità, con un tipo di, io giro sempre in Panavision, con un tipo di lenti, eccetera, e allo stesso tempo di avere il controllo sul prodotto. Devo dire, io sono molto orgoglioso, l'ho ridato tra l'altro ieri a Ardena sulla 7, mi hanno fatto un regalo di compleanno, ed è un bellissimo film, così come è stato Trasformista, cioè un film secondo me molto, molto dignitoso e soprattutto con quell'iperrealismo visivo che a me piace, che è quello del cinema americano, cioè dove a un certo punto devi spettacolarizzare un po' le immagini, devi avere un'epicità di racconto dal punto di vista delle lenti che usi, e questa è una mia necessità. Poi io, da quando faccio anche regista, sono l'attore più duttile del mondo, perché è così bello, fa solo l'attore, non ha nessuna scocciatura. Però quando penso a una storia, spesso mi accade di vederla. Allora, se la penso prima, devo girarla io, non è difficile per me offrire a un altro regista. Oppure, come mi cade di fare da produttore, perché per la televisione ho prodotto ormai più di 100 film, penso già di fare una cosa da affidare a un regista che conosco, quelle tecnicality, quelle capacità. Che cosa significa questo? È un'iniziativa di Lorenzi, sai, secondo lui la crisi dell'orgoglio laico è colpa tua, se l'ha legata al dito. Questa è l'ultima copia, domani il giornale chiude. Qui c'è scritto che la spiata sugli incontri segreti di Battani l'ho fatta io. In effetti è così. Che cazzo dici? Ti ho chiesto qualcosa? Calmati, calmati Augusto, mi dispiace. Adesso sei bruciato. Cosa? Bruciato? Non farne un fatto personale, tu non sei più credibile. Testa di cazzo! Fermo! Fermo! Oh, no, pezza di merda! Io ti spacco il culo! Vai! Non mi toccare! Che cazzo vuoi? Cosa vuoi, diventare ministro tu, da solo, magari di un governo tecnico, senza neanche essere stato eletto? E allora? Straordinaria scena del Trasformista, dove il personaggio di Luca Barbareschi, Augusto Viganò, prende coscienza, come si diceva un tempo, andando nei luoghi devastati da un'alluvione, e decide di entrare in politica. Qual è la tua esperienza, come uomo intendo dire, della politica? Cioè, vista allora nel 2002 da regista raccontando una storia, vista oggi avendola praticata, insomma, hai visto congruenze, sei disilluso, com'è? Ah, guarda, quando ho scritto il film con Gianfranco Manfredi, che è un bravissimo scrittore di romanzi e anche di fumetti, e abbiamo fatto una scelta che voleva essere oggettiva. Io sono un uomo sono un ex socialista, ma diciamo più orientato a un centrodestra, e scelsi di lavorare con Gianfranco, che è uno invece molto di sinistra, di Rifondazione. Dico, raccontiamo una storia onesta, no? In cui voleva raccontare la politica, non di parte, ma cos'è oggi la politica. E devo dire, mentre scrivevamo, pensavamo di non arrivare a volte di esagerare. Mi ricordo con Gianfranco abbiamo detto, ma facciamo una scena di qualcuno che si droga in aula, e magari va in bagno, tira della cocaina. Poi abbiamo detto, ma no, ma chi è così coglione da entrare con della droga? Poi sei mesi dopo il film, mentre usciva, scopriamo che c'era una coordinava addirittura al Ministero dell'Economia della cocaina, e attraverso le telecamere conversava amabilmente su quanta gliene dovessero portare. Per cui la realtà è di gran lunga superiore a qualsiasi immaginazione, come al solito. Infatti il grande Shakespeare sosteneva che la cronaca è la migliore ispiratrice per fare delle strutture narrative. Ma perché la banca impegna tanto capitale e tante risorse nella vendita di questi missili? È un test. Le armi leggere sono le uniche usate nel 99% dei conflitti mondiali. E nessuno ha la capacità di fabbricarle in modo più veloce e a prezzo migliore della Cina. Il fine che Skarsen sta perseguendo è quello di fare dell'IBBC l'unico broker delle armi leggere cinesi vendute nel terzo mondo. E i missili sono la transazione di entrata. Sì, ma miliardi di dollari investiti solo per fare il broker. Non ci può essere tanto guadagno per lui. No, figuriamoci se mirano a guadagnare dalla vendita di armi. Mirano al controllo. Controllo del flusso di armi? Controllo del conflitto? No, no, la BBC è una banca. Il loro obiettivo non è il controllo del conflitto. È il controllo del debito che il conflitto produce. Vedete, il grande valore di un conflitto, il vero valore, sta nel debito che genera. Se controlli il debito, controlli tutto quanto. Era un politico anche in The International, Luca Barbareschi, un politico che finisce anche male, tra l'altro, con il colpo di un cecchino. Perché ha capito perfettamente come funziona il meccanismo del traffico delle armi e della gestione della politica da parte di chi ha i capitali, perché poi in tutto questo la vera cosa che andrebbe fatto oggi è un film vero sulla finanza internazionale, perché la gestione della finanza è quella che dà veramente le carte, cioè la BCE. Io farei un film domani sulla BCE se potessi, su come oggi le grandi lobby economiche possono condizionare qualsiasi governo, proprio lo muovono come con un telecomando, con un timone. Perché appunto, come dice, quella è forse una delle più belle frasi di film che ho fatto, scritte, perché l'idea del controllo ti spiega in maniera molto semplice come funziona tutto. Cioè, se tu controlli il debito, c'è una frase finale che diceva che sia poi piccolo o grande, no? Che è quello che accade anche nelle banche. Quando sei in debito con una banca, se no ho finito. Certo, non ti molla più, assolutamente. Ecco, allora siamo arrivati in fondo al percorso con questo film che è stato il penultimo, poi c'è stato appunto Noi credevamo di Mario Martone, grandissima esperienza anche quella. Siamo arrivati in fondo anche alla nostra intervista, però prima fuori onda Luca Barbareschi ci ha promesso che ci dava una piccola anticipazione sui suoi prossimi lavori, e allora siamo qui. Guarda, ti do prima sono felice di darle in anteprima Radio 24, perché è una radio bellissima, di grande qualità e di grande anche ironia, sia nelle cose che poi fa, anche quelle, la Zanzara, mi piace moltissimo, ed è anche un bellissimo quotidiano, per cui io farò l'anno prossimo, come produttore usciranno tantissimi dei film, uscirà La vita di Dorando Pietri con Locascio e Laura Chiatti, che era La vita del grande maratoneta, quello che vinse la maratona nel 1910. Certamente. Poi uscirà Musica Silenziosa, che è un progetto che ho voluto fortemente, che tipo è come la storia di Barenboim, cioè è la storia di un conservatorio pugliese che si ribella alla mafia. E sono 6 film da 100 minuti per la Rai. Poi uscirà La vita di Walter Chiari con Alessio Boni, che aveva la regia di Enzo Monteleone, che è regista di Ella Alamein e di altri film di successo. Poi stiamo girando adesso l'Olimpiade Nascosta, che è una storia di una vera Olimpiade fatta in un campo di prigionia nel 1944, riconosciuta dal CONI, che si darono questi prigionieri da Germania, e Nero Wolf in 8 puntate. E faremo un film su Battisti, sul caso Battisti, il terrorista, ma la cosa per me importante, a dire di cose che fa la mia società, che è una bellissima azienda di audiovisivi, e il mio prossimo film, che si chiamerà Parla di bene di me, che è sulla storia della mafia agroalimentare. È un film fra l'Italia e Shanghai, ambientato fra l'Italia e Shanghai e Hong Kong, che racconta la storia di un trafficante di cibo avariato, ed è una bellissima storia d'amore metropolitana in cui stiamo trattando adesso sia con Gong Li che con un'altra grande attrice cinese. Beh, diciamo insomma che Luca Barbareschi non si annoierà nei prossimi mesi. Grazie ancora di essere stato qui con noi alla Rosa Purpurea, e buon lavoro per tutte le attività. A presto, ciao. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, Franco D'Assisti in studio, siamo arrivati alla consueta ora settimanale di attualità cinematografica. In questo weekend comincia a fluire il prodotto, passato il Ferragosto si ricomincia a piombare un po' in quella che è la parte più importante, più interessante, gli inizi, gli albori di una nuova stagione. E allora andiamo subito a riepilogare i film di cui vi parleremo in questa puntata nei nostri titoli di testa. Come ammazzare il capo e vivere felici. Solo che spesso le cose sono più difficili di quel che sembrano. Un igienista dentale molestato dalla sua dottoressa, un manager vessato dal suo aguzzino, uno spedizioniere scavalcato dal nuovo capo. Arriva in sala Horrible Bosses, commedia scorretta con un cast stellare. Da Jennifer Aniston a Colin Farrell, da Kevin Spacey a Jamie Foxx. Ritorna dopo 30 anni il mito di Conan il Barbaro. Il muscolare personaggio dei fumetti rivive in un remake venato di sangue e sadismo, e stavolta i panni succinti in cui c'era un giovanissimo Arnold Schwarzenegger vestono l'hawaiano Jason Momoa. Un addio al nubilato stile Notte da Leoni, al centro de Le amiche della sposa, commedia al femminile per risate più grasse che grosse. Immancabili elementi della trama, un clan di amiche e gli ultimi frenetici giorni che precedono un matrimonio. Continua il nostro viaggio sui set dei film italiani che arriveranno in sala nella prossima stagione. Oggi incontriamo Biggio e Mandelli, che portano sul grande schermo l'esperienza televisiva de I soliti idioti. Acqua? Sì. Ok, proviamo se funziona. Oh! Ma che fai? Scusa tanto, sono una che spruzza. Oh, ma guarda là. Che cosa? Ah, se non vado errata, si vede il nostro amichetto là sotto. Smettila. Shabbat shalom, qualcuno è circonciso. Ok, tu, senti. Che c'è? La smettiamo di fare questa cosa? Perché hai la ragazza. Beh, non è più solo la mia ragazza, ci siamo fidanzati. Cosa? Siamo fidanzati. Chiudi il becco. È un po' troppo gas. C'è la dentista ninfomane, perennemente alla ricerca di sesso dal suo assistente, che non ne vuole sapere. Signor Arkan, le posso parlare? Sì, certo, che c'è. Lei per mesi mi ha fatto credere che avrei avuto quella promozione. E hai visto quanto hai lavorato sodo? Allora mi stava mentendo. Mentendo? No, Nick, ti motivavo. Insomma, facciamo tutti parte della stessa squadra. E poi sono io quello che si farà tutto il lavoro extra. L'altro mese mi ha fatto lavorare così tanto che non ho potuto dire addio alla mia bismamma. Non ho capito, scusa. Mia nonna, le ho detto che era molto grave, ma lei ha risposto che se fossi uscito mi avrebbe licenziato. È morta prima che io arrivassi in ospedale. Condoglianze. Grazie. Non mi avevi mai detto che chiamavi tua nonna in questo modo, bismamma. Scusa, perdonami. Mi dispiace che tu non abbia detto addio alla tua bismamma. Sul serio, mi dispiace veramente. Ma serviva che tu lavorassi fino a tardi, perché sei un prezioso membro di questa squadra e devi restare nel posto in cui stai. E c'è il manager aguzzino che ti fa andare a lavorare alle 6 del mattino e ti rimprovera se arrivi alle 6.02 e non ti ha fatto nemmeno dare l'ultimo saluto alla tua bismamma. Ah sì, dobbiamo eliminare un po' di grassi. Che vuol dire eliminare i grassi? Licenziare i ciccioni, semplice. Cosa? Sono pigri e lenti e guardarli mi intristisce. Comincia con Margio. Margio, Margio, puoi venire per favore? No, Margi non è grassa, è incinta. Non la puoi licenziare. Ah, va bene. Resta pure là, Margio. E auguri. Allora licenzia il professor X. E chi diavolo sarebbe? Vuoi dire Hank? Sì. Cazzo, mi dai brividi, va in giro tutto il giorno su quella sua sedia speciale. E c'è infine, l'avete sentito, il giovane principale cocainomane, sessuomane, senza storie e senza principi, che ha preso il posto del padre morto prematuramente a capo di un'azienda di trasporti. Chi non ha sognato almeno una volta di ammazzare il suo capo alzi la mano. I protagonisti di Come ammazzare il capo e vivere felici, la scoppiettante commedia Politically Correct che di fatto apre la nuova stagione cinematografica con il suo cast stellare, fanno però un salto di qualità perché l'omicidio dei rispettivi capi lo pianificano davvero. L'igienista dentale Charlie Day, per proteggere la propria dignità dagli assalti erotici della scatenata dottoressa Julia, una Jennifer Aniston bella e piccante come mai. L'aspirante manager Nick, Jason Bateman, per ottenere quel posto di vicepresidente che gli era stato promesso dal suo folle superiore Harken, bentornato Kevin Spacey. Il contabile Kurt, Jason Sudeikis, per non vedere finire sulla poltrona a cui è destinato il figlio del capo morto, ancora una fine prematura per Donald Sutherland, un pelato corrotto cocainomane interpretato da Colin Farrell. Tutti hanno un motivo per far fuori il capo, solo che non ne hanno il coraggio, né i mezzi, né, come si dice, il know-how. E allora, che idea geniale, andiamo in un bar dei bassi fondi della città. Un assassino lo troveremo pure. E l'assassino si cela sotto le mentite spoglie di un improbabile Jamie Foxx, che davanti a un drink chiede al trio tanti soldi, ma non usa mai la pistola, eroga consigli. Per quasi tutti è la prima volta. Per commettere un omicidio perfetto dovrete far credere a un incidente. E se lo fate bene non dovete essere presenti quando succede. Come dovremmo organizzarle tre finti incidenti? Seguite la preda, ci vuole cervello. Scoprite dove vive, scoprite le sue abitudini, i suoi hobby, che cosa gli piace. Potete compiere il delitto perfetto. Ma se voi bianchi avete un movente, la popo è la polizia. Ah? Vi becca sempre. Tutti noi abbiamo dei moventi per uccidere i nostri capi. Validi, quindi non moventi. Può funzionare, è una cavolata. Uccidete ognuno il capo dell'altro. Direi che è una buona idea. Non male. Sì, sì, come nel film di Hitchcock, Delitto per delitto. Non l'ho visto, fanno questa cosa. Con Danny DeVito, sì, è divertente. Il famoso film di Alfred Hitchcock con Danny DeVito. Non l'ho visto. Sveglia. È la solita inserzione a far scaturire l'appuntamento in un losco motel di periferia con l'uomo che può risolvere i loro problemi. Che ci facciamo qui? Ciao. Beh, io non voglio un killer in casa mia. Non vogliamo che sappia dove abitiamo. Usa la testa. Non ho capito, voi due avete già trovato qualcuno e sta venendo qui. Puoi scommetterci. Non noi, Dale. L'ho tutto trovato, da solo. Sì, esatto. È stato facile. È come comprare un futon usato. Un sicario su internet. Sì, non scrivono sicario, però sarebbe stupido. Usano parole in codice come lavoro bagnato o liquidazione, guarda. Ma professionista esperto con anni di esperienza in lavori bagnati nazionali e internazionali. Veloce e discreto, niente bambini né politici. L'ultima parte è importante per me e quando l'ho vista ho pensato è una buona idea. Avremmo dovuto prendere un piatto di formaggi o qualcos'altro per far sembrare ormai che c'è qualcuno. Tardi. Sarà lui? Cazzo. Sì, quello era un antifurto. Capito che il lavoro bagnato altro non era che una pratica sessuale orinatoria e ripresisi dallo shock della scampata pipì, i tre decidono di fare da sé, come da proverbio. Incrociano le potenziali vittime, tu fai fuori il mio capo, io il suo, lui il tuo, dando origine a una serie di equivoci e disastri di indubbia qualità comica. Dopo una notte da leoni, la commedia americana è cambiata per sempre. Lo dimostra anche questo Horrible Bosses, bellissimo titolo originale, che si inserisce nell'ondata di commedie scorrette che sta invadendo il mercato americano ed europeo. Già 400 anni fa Shakespeare aveva capito che i rapporti di classe avrebbero dominato e rovinato le nostre vite. Chi sopporterebbe i torti dell'oppressore, le offese dei superbi, gli scherni che il meritevole pazientemente subisce dagli indegni, diceva Amleto, potendo trovare pace con la semplice lama di un pugnale? Ebbene, quella lama, sotto forma di pistola o veleno per topi, i nostri tre antieroi fantozziani la impugnano davvero, per rivolgerla verso i piani alti. Si ride dal primo all'ultimo minuto in questo film, grazie anche a un cast che, al di là degli specialisti nei ruoli dei tre dipendenti vendicatori, Jason Sudeikis per esempio, lo abbiamo appena visto in Libera Uscita e in Notte Brava a Las Vegas, mette in campo delle autentiche star universali nei ruoli dei capi da eliminare, dalla Jennifer Aniston dentista maniaca, al Kevin Spacey manager psicopatico, al Colin Farrell capetto depravato. Tre nomi da locandina assoluta che si mettono in gioco entrando perfettamente nel piano del regista Seth Gordon. Un'unica incongruenza: chi non si farebbe molestare da un capo come Jennifer Aniston? Can't stop. Come and tell me when it's time to. E questo era Come ammazzare il capo e vivere felici nei cinema italiani. La rosa purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea con un'altra novità, anzi altre due novità di questo fine settimana che vuole essere un po' quello del rilancio della stagione, anche se poi sarà il prossimo weekend quello davvero pieno di titoli. Arriva un film che è un titolo, è un nome che insomma quelli che hanno la mia età negli anni 80 fece il suo effetto, ovvero Conan il Barbaro, ve lo ricorderete, un giovanissimo Arnold Schwarzenegger, tra l'altro ne abbiamo parlato recentemente anche in chiave di home video, perché proprio ultimamente è uscito anche il film in home video, il film originale. Qui siamo 30 anni dopo ormai di fronte alla riproposizione di un eroe che in tempo di supereroi è un eroe un po' particolare, perché invece è un eroe tutto di muscoli, tutto di carne ed ossa, senza alcun superpotere, ma insomma, come dire, con la sua bella capacità di arrangiarsi. Allora, noi ne parliamo con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco. Ti ricordi Schwarzenegger quando eravamo giovani? Ma io sono commosso al pensiero di Schwarzenegger, ma ricordo anche i fumetti su Conan. Insomma, Conan ha avuto diverse vite, devo dire, e tutte, quasi tutte buone, però me lo ricordo. Beh, sicuramente, tra l'altro, lasciamolo dire, insieme al Terminator, l'unica buona interpretazione del nostro del governatore, del grande governatore. Io ricordo invece la caricatura che ne faceva Diego Battantuono chiamandolo Conan il Barbaro, che era un'altra cosa che ci faceva molto divertire. Beh, insomma, Conan è tornato, noi ascoltiamo questa clip e poi ne parliamo. Vedo un viaggio, un uomo che attraversa i deserti. Un cavaliere? Un guerriero. Le vostre strade si uniranno. Ammirate! Il vostro nuovo padrone! Allora Boris, Conan il Barbaro, differenze, analogie, adattamenti, ringiovanimenti, com'è sto film? Guarda, posso dirti una cosa, credo che sia il titolo, forse l'analogia reale con il passato, perché mi sembra anche ingenuo verso questo Conan, che è una delle classiche operazioni della Lionsgate, cioè fare un film medio che ambisce ad essere un blockbuster negli incassi ma non sicuramente nella fattura, che quindi non può esserlo in termini di budget, cosa che sicuramente si fa sentire in un film come Conan il Barbaro, che però insomma si barcamena tra il commerciale e un certo tipo di autorialità. E va detto che insomma il film questo ha davvero poco da dire ai vecchi appassionati, cioè nel precedente c'era uno straordinario sottotesto anche per quanto riguarda il rapporto con la natura, la barbarie intesa anche come elemento intellettuale e non semplicemente come voglia di lottare. E poi devo dire, personalmente temo che Matrix, che comunque è uno dei film più interessanti fatti negli ultimi decenni, ha fatto un gravissimo danno, che sono i combattimenti coreografati e in alcuni casi rallentati. Vederli in Conan il Barbaro fa male al cuore, fa veramente male al cuore. La freschezza e la durezza, la ruvidezza dei combattimenti del film del 1982 del grande John Milius non vengono assolutamente replicati da questo qua, che insomma vola plasticamente Marcus Nispel e sostanzialmente perde tutta quella verità, quella barbarie vera e propria. Diciamo che se quello di Milius era Conan il Barbaro, questo, tranne all'inizio con il Conan bambino che decapita i suoi nemici, può al massimo essere Conan il Burbero. Non male, non male. Promosso anche Boris Sollazzo. Un regista, dicevi, di origini tedesche, Marcus Nispel, che sembra essersi specializzato su due filoni. Uno è il remake, il remake degli horror di epoche più lontane, come Non aprite quella porta o come Venerdì 13, e l'altro sono i vichinghi o comunque i popoli nordici, da Pathfinder, la leggenda del guerriero vichingo, a Conan il Barbaro. Ecco, diciamo che è migliorato, perché rispetto a Pathfinder, comunque questo con il Barbaro è un capolavoro, però Pathfinder credo che fosse una delle cose peggiori che abbiamo visto negli ultimi anni. Mi sembra, al di là delle sue specializzazioni, mi sembra sostanzialmente un regista decisamente mediocre e anche con ambizioni molto superiori rispetto al suo talento. Vero è che probabilmente proprio per questo è il regista ideale, perché una produzione più o meno faccia quello che vuole con le storie che deve fare o rifare, quindi non a caso non lo mettono a capo di un progetto originale, ma cercano di fargli rifare cose che nessun regista sano di mente rifarebbe, perché poi rifare questi grandi classici temo sarebbe un suicidio anche per grandissimi registi, figuriamoci per uno che insomma riesce a stento a stare in piedi dietro la macchina da presa. Senti, parlami brevemente anche di questo nuovo Conan, Jason Momoa di Honolulu, Hawaii. Sì, guarda, se gli toglievamo il vestito da Conan, anzi lo svestito da Conan, visto che spesso ci offre i suoi pettorali, sicuramente migliori dei miei, ma migliori di molti di coloro che ci ascolteranno, devo dire, se gli mettessi appunto invece che quei vestiti o quei pochi stracci che ha addosso la collana tipica hawaiana, lo scambieresti per un bagnino delle Hawaii. Ha una voce estremamente roca e questo lo aiuta ad entrare nel personaggio, ha questi capelli straordinari, questo viso ebete però molto ben scolpito, ed è di fatto una sorta di manichino, non ha nessuna capacità attoriale, ma in questo caso, nel suo caso, davvero neanche serve. Serve una marionetta che faccia quello che volevano. In questo senso va detto, il pur macchinoso Arnold Schwarzenegger dava uno spessore al personaggio che questo Momoa si scorda. Va bene, allora, incoraggiante, grazie. Boris, sei proprio spinto verso la sala. Allora, a questo punto stai lì, perché invece noi giochiamo, e come stiamo facendo sempre durante quest'estate, giochiamo con i grandi classici in un video. Ascoltiamo la prima clip di oggi. Io ti ammiro davvero, sei uno dei miei eroi da molto tempo e sono colpito dalla tua competenza, ma ho un blocco emotivo. Sì, vabbè, saranno 11 parole più o meno. Sai che ti dico? Va bene anche AJ? Mi dispiace molto. La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete indovinato già di che film si tratta, per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi vi faremo ascoltare un altro paio tracce di questo film misterioso. Meno misterioso invece è l'altro film di cui vogliamo parlarvi, perché arriva nelle sale in questo weekend, ovvero Le amiche della sposa, e anche qui un titolo e anche una locandina che ci fanno già andare con la mente verso un certo tipo di commedia sentimental, romantic, Sex and the City, eccetera eccetera, insomma avete capito un po' il genere, un cast non particolarmente quotato, ma insomma dove ci sono Rose Byrne e Jill Clayburgh. Andiamo a ascoltare il trailer. Buongiorno. Buongiorno, hai dormito tanto? Davvero? Noi avevamo delle regole. Scusa tanto, voglio che tu te ne vada, è che non so come dirtelo senza sembrare crudele. Saresti dovuta andare via comunque. Sta arrivando la donna di servizio. Oh, salve! Boris, che c'è di nuovo nel Midwest, in questa Le amiche della sposa, rispetto appunto al filone che ho citato prima come un filone pastone, nel quale amiche che stanno per sposarsi, quelle che sono celibi, quelle che sono fatali, eccetera, eccetera, cioè i 30 anni vissuti dalla commedia brillante americana degli ultimi anni? Ecco, se devo essere sincero, è più vicino a Una notte da leoni che al genere che hai raccontato tu, e questo perché... perché al di là del fatto che c'è appunto ci sono un regista, c'è uno sceneggiatore diverso dal solito, in produzione c'è già Dapatow, ne abbiamo parlato qualche settimana fa a proposito del Signore dello Zoo, è un po' una sorta secondo me di Spielberg demenziale, per cui adesso tra o Abrams demenziale, per cui tra regia, produzione, sceneggiatura ha sostanzialmente appaltato una parte del cinema americano che è quello più divertente, ma è soprattutto quello che tratta dei temi, tra virgolette, di genere. Fino adesso si era dedicato agli uomini, specialmente a quelli un po' più sfortunati, da 40 anni vergine in poi, ma c'era anche molto incinta. Ora invece si dedica alle donne e lo fa con lo stesso criterio, cercando un cast non particolarmente famoso, cercando una storia molto divertente, cercando un regista bravo ma che si presti anche a fare quello che vuole lui, come Paul Feig, e ne esce fuori secondo me una cosa molto divertente, una cosa molto interessante, una commedia al femminile come non ne vediamo spesso, in cui le donne non sono delle pedine o delle belle statuine ma rappresentano un valore aggiunto al film anche in termini recitativi, e devo dire che insomma il risultato alla fine è decisamente divertente e interessante, soprattutto grazie a Kristen Wiig, ma anche a personaggi che ritroviamo dalle serie televisive come John Hamm. Io mi sono realmente molto divertito, credo che sia uno dei film migliori dell'estate, soprattutto perché pensi di andare a vedere qualcosa dalla trama che hai già visto e scopri di vedere qualcos'altro, altro che Sex and the City. Questa secondo me è la bella copia. Assolutamente, possiamo ribattezzarlo allora Una notte da leonesse, per intenderci. Bravissimo, bravissimo. Un giorno da leonesse. Un giorno da leonesse, la notte non c'entra, un giorno da leonesse. Benissimo Boris, allora grazie per averci raccontato Le amiche della sposa, ma rimani con noi perché fra poco invece cominceremo a buttare già l'occhio a quello che ci aspetta dalla prossima settimana, quando come dicevo arriva il pieno della ripartenza di fine agosto. Poi il Festival di Venezia, come sempre, darà la stura a tutto quel che riguarda il film, l'inizio vero cinematografico dell'autunno. La rosa purpurea. Buongiorno, signore. Come posso aiutarla? Mi cambia $100? Subito, signore. Posso esserle utile in qualche altro modo? Stanno per fare una rapina. Eh? Oh! Questa è una rapina! Ehi, che ci fate con voi altri? Secondo te stiamo rapinando la banca? A voi interessa la cassaforte. E a voi invece interessa il banco. Forse. Allora mi dite qual è il problema. Ci stai davvero suggerendo di rapinare la stessa banca? Certo. Perché no? Perché no? Perché no? Perché non rapinare in due la stessa banca? Perché se no non verrebbe fuori questo film che è Le regole della truffa. Siccome abbiamo parlato dell'attualità dei film che escono questa settimana, ma il giro di boa di Ferragosto che è passato porta il cinema verso la normalità autunnale e la prossima settimana arriva una valanga di film, abbiamo cominciato ad anticiparne qualcuno. Quindi i film di cui vi parliamo adesso non li troverete subito in sala, ma la settimana prossima. E cominciamo proprio dalle regole della truffa, lo facciamo con Boris Sollazzo. C'era un film che si intitolava Una poltrona per due, qui potremmo dire Una banca per due. È molto inquietante perché avevo questa battuta sulla punta della lingua e tu me l'hai rubata, questa simbiosi sta diventando davvero qualcosa di cui preoccuparci. Però sì, assolutamente, è Una banca per due, trova in Patrick Dempsey un affascinante, come al solito, protagonista, qui anche molto ironico, molto divertente, trova gli autori di Una notte da leoni, che si vede, trova una storia che nell'ambito del Last Movie, non c'è, ovvero il film da colpo grosso, non ha avuto quasi nessuno, cioè mettere due bande di rapinatori nella stessa banca e fargli trovare uno strano modo di collaborare. Se volessimo essere blasfemi nei confronti di uno messi Mario Monicelli, una sorta di Soliti ignoti 2.0. Il film è divertentissimo, io l'ho trovato uno dei migliori del genere, il film di rapina di banca, vedasi Ben Affleck ma anche tanti altri, è tornato in auge negli ultimi anni, adesso c'è anche la commedia e devo dire che Le regole della truffa si inserisce molto molto bene in questo genere e a mio parere è uno dei più riusciti. Che stai facendo? Cerco un modo per uscire. Non hai sentito che ci vogliono uccidere? Santo cielo, io ti piaccio. Tu non mi piaci affatto. Eppure avrei detto che potevo avere una possibilità. Che tristezza quando muore una bella gnocca. Se muore un'aracchia, chi se ne frega? Tanto la sua vita era uno schifo. Qualcuno l'ha uccisa e uccideranno di nuovo. L'avete uccisa voi la bella gnocca? No, e non l'avete uccisa neanche voi, mentre sei, che è giusto? No. Che sta succedendo? C'è una sola possibilità. Questa non è una rapina. Ci hanno teso una trappola. Ma fammi il favore. Ci vogliono ammazzare? Li ammazziamo prima noi. Bel piano. Circoscritti dalla stessa banca, i rapinatori finiscono anche per innamorarsi, come avete sentito, e per flirtare uno con l'altro. Cambiamo però film, sempre riferendoci alla prossima settimana, arriverà nelle sale un film che secondo me è un po' una scommessa, perché le carte per far bene ce le ha, almeno come ingredienti commerciali, perché trovare un attore come Colin Farrell nei panni di un vampiro, e i vampiri sono nel loro massimo splendore storico per quanto riguarda il cinema, può essere davvero interessante. Allora andiamo a ascoltare questa clip di Fright Night. Adam Johnson? Adam? Quindi Adam è scomparso? Sì, solo perché non viene a scuola. A me sembra normale. Non so se stavi attento all'appello, ma non è l'unico che è sparito. Sei matto. Questo è mio figlio, Charlie, e lei è la sua ragazza. Ciao. Lui è Jerry, il nuovo vicino. Ehi. Ehi. Stammi a sentire, abbiamo fatto un grafico delle sparizioni. Sei tu questo al centro vicino a casa sua. Non vorrei essere io a dovertelo dire, ma il tuo vicino, quel tipo... Jerry? Sì, è un vampiro. È un nome terribile per un vampiro. Jerry, il vampiro col nome terribile. Avete sentito anche dal clima della prima parte del trailer, poi ascolteremo un'altra, sentirete proprio un altro clima. Sembra quasi una commedia, una solita provincia americana nella quale ci sono queste sparizioni, ma vengono trattate così, come se fosse un elemento poco serio. E poi arriva Jerry, che è appunto Colin Farrell, in questo appartamento a fianco a quello dei protagonisti, e insomma le cose cambiano, come diceva David Mamet. Sentiamo come. Ehi, ciao. Tu tieni d'occhio me, io tengo d'occhio te. Tua madre è una un po' trasandata, lo sento dall'odore. E la tua ragazza è un amore. Sta a te badare a loro, perché c'è un sacco di gente bruttissima in giro, Charlie. Chi c'è? Riuscirà a trovarmi. Ci conto. E allora, Colin Farrell nei panni di un vampiro, una bella scommessa anche per lui in un film che dovrebbe occhieggiare un pubblico, insomma, che va dalle parti Twilight, tanto per non fare nomi, anche se il film è molto diverso ed è il remake di una commedia dell'84 che era L'ammazza vampiri. Boris, riuscito questo scambio di personaggi fra un Colin Farrell che ormai ci abitua a prove diverse in tutti i film? Guarda, è abbastanza difficile risponderti, perché il film ha il pregio di richiamarsi in maniera abbastanza fedele al passato, il film di Tom Holland che tu ricordavi, L'ammazza vampiri del 1984. Colin Farrell sembra cominciare ad avere la deriva che ha avuto Tom Cruise e Johnny Depp, cioè di massacrarsi fisicamente. In Horrible Bosses era pelato e drogato, qui invece sembra quasi... volendo citare Johnny Depp, il Johnny Depp del Pirata dei Caraibi, soprattutto quando è vampiro. E, il film funziona, senza dubbio funziona. È un film, per essere un possibile blockbuster, anche abbastanza poco costoso, parliamo di 17 milioni di dollari di budget. Secondo me, di fatto, promette quello che mantiene nel momento in cui leggi la trama e ti immagini quello che potrà arrivare. Non è un capolavoro, però aiuta molto il fatto che ci siano due attori molto bravi, cioè Colin Farrell e Anthony Yelchin, da anni uno dei giovani attori più bravi di Hollywood, solo che sta invecchiando, quindi deve stare attento a fare l'eterna promessa. E dall'altra parte c'è Toni Collette, madre di Anthony e vicina e probabilmente spasimante di Colin Farrell, che crea questo triangolo molto particolare. Il film merita, ma non troppo, a mio parere comunque avrà un certo successo, perché piacerà ai vampirofili e piacerà anche a chi ama di più la commedia e ama anche di più prendere in giro certi stereotipi cinematografici. Hai detto appunto di Colin Farrell, ricordiamo appunto Horrible Bosses, che è niente meno che Come ammazzare il capo e vivere felici, di cui abbiamo parlato in apertura di trasmissione. Grazie Boris, appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana, un abbraccio. Ed è arrivato il momento di giocare ancora insieme con il nostro DVD Game. Sentiamo la nostra traccia misteriosa. Sono stato inviato qui dal segretario della difesa per ordine del presidente degli Stati Uniti. È un'emergenza che investe la sicurezza nazionale. Mi segua a bordo dell'elicottero senza fare domande. Avete indovinato di che film si tratta? L'indirizzo per partecipare al nostro game è La Rosa Purpurea, @radio24.it, per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi avremo l'ultima possibilità. E allora è arrivato il momento di continuare il nostro viaggio di questo agosto 2011 sui set dei film italiani che quest'estate hanno preparato il terreno per la loro uscita nella prossima stagione. Oggi parliamo di un film che arriva da una sitcom, da una serie di episodi di grande comicità televisiva, un po' come era successo con Boris, ricorderete. Questa volta invece è il programma che diventa film, sono I Soliti Idioti, un successo nato quasi alla chetichella, quasi sotto traccia, sbarcato poi su MTV con le facce e la comicità di Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio. Li abbiamo intervistati alle giornate di cinema professionali di Riccione, è stata una delle interviste più difficili ed esilaranti della mia recente storia. Ascoltiamo. Come si passa dalla TV al cinema? Cioè, com'è che avete sentito questo bisogno e anche che lavoro c'è stato? Certo. Noi in realtà avevamo pensato ad una storia cinematografica in tempi non sospetti. Quando abbiamo cominciato a lavorare I Soliti Idioti, dopo il primo anno abbiamo capito che avevamo una galleria di personaggi che potevano vivere, insomma, di vita propria e potevano avere uno sviluppo maggiore rispetto ai 3 minuti di uno sketch comedy, che per carità è sempre una formula a cui noi siamo affezionatissimi perché è di facile fruizione, la gente ride, si diverte, cioè passa parola. Però ci siamo accorti e ci è venuta voglia di scrivere qualcosa che fosse una storia che fosse dall'inizio alla fine qualcosa di cinematografico. Chiaramente abbiamo fatto un percorso di pulizia e di chiarificazione di quelli che erano l'idea dei Soliti Idioti per arrivare poi a una storia che sia semplice, divertente, che sia una storia in cui tutti si possono riconoscere, che ti faccia uscire dal cinema col sorriso sulle labbra, ecco. E non con le palle giocate perché si butta via 7 euro. No, però per esempio ci siamo accorti che tanti personaggi non andavano bene per il cinema. Cioè, certo. Noi avevamo voluto mettere alcuni personaggi, poi provando a incastrarli dentro una storia cinematografica abbiamo detto questi al cinema non funzionano. E proprio col cuore in pezzi, infatti l'abbiamo dovuti togliere. E ne abbiamo messi altri, invece abbiamo trovato, credo, i personaggi giusti per fare il film e che ti fanno dimenticare il fatto che sia un programma televisivo, sicuramente, e ti mettono nella... ti fanno sognare, perché poi quando devi andare al cinema devi un po' sognare, un po' divertirti come se fossi sulle montagne russe, no? Per quello abbiamo messo scene anche di spettacolari, antica proprio, Roma, no? Inseguimenti, costumi, cioè la gente deve andare a vedere il film e dire cacchio, questo è proprio il film dei Soliti Idioti, non è la trasposizione televisiva vista in un grande schermo. Esattamente, quindi... I Soliti Idioti al cinema, però con del sesso in più. Ma tanto? Tanto, sesso proprio che si vede, per una volta, perché sai, vai al cinema, intravedi un capezzo e rimani sempre deluso, no? Nel nostro film non ci sarà delusione perché siamo al limite della pornografia proprio. No, adesso non esageriamo. Vabbè, però non vanno. No, sarà un film, è un film per famiglie, questo è un film per famiglie. Sai perché? Perché dai, smettila, poi la gente pensa che è vero. Guarda che Radio 24 è una radio seria questa, non sono le radio che ascolti tu, quelle cose lì. Sarà un film per famiglie, perché la cosa che ci ha stupito di più dei Soliti Idioti, sì, quando la gente ci ferma per strada, è che magari il figlio ha visto per la prima volta la serie ed ha contagiato tutta la famiglia, che ci dice: guarda, io vi odio perché mi avete fatto diventare un tossicodipendente delle vostri sketch, anche se ho 50 anni. E quindi in qualche modo la famiglia per la prima volta si trova tutti insieme davanti alla televisione a guardare un programma che non è la prima serata di Rai 1, ma sono personaggi completamente fuori di testa e politicamente scorretti. Sì, quindi... compresi anche bambini di 5 anni, 4 anni che dicono, ripetono dei tormentoni un po' magari forti, no? Ecco, e poi si divertono, non so cosa capisco. La cosa strana è soprattutto che I Soliti Idioti è nato come un programma di seconda serata su MTV completamente scorretto, cioè una roba che è al limite della messa in onda, e piano piano la gente è andata a cercarselo, cioè non è stato una cosa per cui abbiamo bombardato, la gente l'ha scelto ed è stato molto democratico anche come successo, tra virgolette. Speriamo che il film possa avere la stessa storia, cioè che insomma la gente possa dirsi vai a vedere il film dei Soliti Idioti perché io ci sono stato e mi fa ridere, quindi... Ma il film ha uno schema, ha episodi, ha sketch... No, il film è una storia, il film è una storia. Il film sarà una storia attorno a cui ruotano alcuni dei personaggi dei Soliti Idioti, ma avrà lo schema cinematografico, uno sviluppo in 3 atti, insomma, alla fine il nostro personaggio avrà subito un cambiamento, questo vogliono vedere le persone. Esatto. Cioè, copiato dal Cielo sopra Berlino di Wim Wenders, è uguale, però, però versione comica. Noi mettiamo informazioni false e tendenziose. E poi c'è un po' di pornografia, ma c'è un po' tutto. Allora, raccontatemi solo l'ultima cosa, invece... No, figurati, c'ho anche un altro occhio, se vuoi. Ma cosa vi aspettate dal cinema? È una strada che avete intrapreso e che magari vi piacerebbe così proseguire, fare? O il famoso filone. Una botte via, so. No, beh, famoso filone. Se ti dicessi che è una botte via, ti mentirei. Nel senso che fare il cinema è il sogno di qualsiasi persona che fa questo mestiere. Noi ci stiamo provando. Intanto non abbiamo nessun tipo di aspettative, perché, insomma, ci proviamo con molto entusiasmo in questo momento. Poi vediamo se capiamo che alla gente piace questa versione di noi, allora andremo avanti con il cinema, magari, con il secondo film. E poi chiaramente l'obiettivo è quello di arrivare a scrivere i nostri film, poterli interpretare, magari che diventeranno anche andare oltre i soliti idioti. Ecco, certo. Cercare di, insomma, di far crescere questa versione cinematografica di noi stessi, con della pornografia e dei cani che si accoppiano. Lui lo dice. Ciao, grazie. La rosa purpurea. Siamo arrivati in fondo alla nostra corsa qui alla Rosa Purpurea, come sempre alla fine del nostro programma le visioni domestiche, i film da vedere in casa, in un video o in televisione. Come sempre il reparto televisivo è curato e guardato a vista dagli amici della settimanale Film TV, che vanno a dare un'occhiata ai palinsesti della settimana successiva per noi, per segnalarci un paio di film che valga la pena vedere o registrare in TV, come sempre rigorosamente in chiaro sui canali satellitari del digitale terrestre e gratuito. Siamo in collegamento con Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio, allora qual è la prima proposta di oggi? Ciao Franco, questa settimana vi proponiamo innanzitutto due film italiani. Partiamo dal primo, domenica su Rai 5 alle 21.10, Le ferie di Liku. Storia di Liku, magazziniere commesso di 27 anni, immigrato regolare, che torna in Bangladesh per sposare una ragazza scelta dalla famiglia. Dopo questo matrimonio combinato torna in Italia. Moroni, con un film in bilico tra fiction e documentario, pone lo spettatore davanti a problemi mai semplificati, che affronta al di là di ogni facile giudizio, affronta questioni come l'immigrazione, il confronto tra culture, la condizione della donna. È un film veramente molto umano, realizzato con ostinazione, autofinanziato e autodistribuito. La seconda proposta, Giulio, cosa avete scelto? Il secondo film italiano che abbiamo scelto è martedì su Rai 5 alle 22, Il vento fa il suo giro, di Giorgio Diritti, allievo ed erede di Ermanno Olmi, che gira un film sul rapporto tra una famiglia straniera e una comunità chiusa, in un discorso stratificato e mai banale sul rapporto tra noi e l'altro. Girato a Monviso in lingua occitana, con mano documentarista, e l'idea di creare un'allegoria verissima sulla dialettica tra individuo e società, è un film che è stato distribuito alla Critichella, ma ha avuto una tenuta impressionante al Cinema Mexico di Milano, più di un anno, grazie al tantan del passaparola. E aggiungerei come postilla, una meritata postilla, per Arrivederci ragazzi, sabato alle 8.35, un classico del cinema francese ispirato a un evento accaduto al regista, il grandissimo Louis Malle. È un film sull'orrore del nazismo, vissuto dalla prospettiva di un ragazzo francese e del suo rapporto con un compagno ebreo. È una storia di formazione struggente, dove il mondo dell'infanzia si scontra con la violenza ottusa del male, della guerra. Leone d'oro a Venezia, uno di quei film che per il tema si mostrano ancora nelle scuole, ma che andrebbe studiato anche per l'etica delle sue immagini. Grazie a Giulio San Giorgio della redazione di Film TV, appuntamento alla prossima settimana con le segnalazioni dei film in televisione. Grazie Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. Ebbene, dopo la parentesi dedicata alla televisione, ci spostiamo in campo on video, cominciando come sempre con la terza e conclusiva traccia del game di oggi. Sentiamo. Stabile, apri la calotta, rimuovila. Fatto. Estrai, procedi all'ingresso. Multicolore. Sotto? Sotto, ma non tutti. Tutti quanti. Ok. Ok, ci sono carichi estratti. Fatti un bel lavoretto, un bel lavoro. Stabile. Stabile, non ci sono carichi estratti. Ora, vai. Se avete indovinato di che film si tratta, la rosa purpurea @radio24.it per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Come sempre vi chiedo di mettere, di inserire il vostro indirizzo di posta per facilitare le eventuali operazioni di spedizione. Sarete avvisati dalla segreteria di Radio 24 in caso di vittoria del game. E invece, 7 giorni fa, avevamo ascoltato questa traccia. E perché dovrei trasferirmi in città? Gli uomini sono partiti, ci preoccupano i nativi. Abbiamo degli ordini, donne e bambini in città. Questo è un internamento, tenente. Le donne e i bambini, baronessa. Si trattava della mia Africa, questo è il film con cui abbiamo giocato la scorsa settimana, abbiamo detto un agosto tutto di grandi classici e questo era il film del 1985 di Sidney Pollack, protagonista una splendida Meryl Streep nei panni di Karen Blixen. E noi abbiamo in collegamento Claudio Pofi per raccontarci un po' questa edizione della mia Africa. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, questa edizione Blu-ray Universal del classico targato 1985 per la regia del compianto Sidney Pollack, la qualità delle immagini è sicuramente superiore al DVD, però attenzione perché insomma ci sono alcune situazioni in cui i fotogrammi dimostrano il peso degli anni con qualche momento di opacità e di grana. C'è la traccia DTS in italiano, molto interessante, sicuramente superiore quella DTS alta risoluzione in inglese. Tra gli extra, che tra l'altro tutti già pubblicati su DVD, segnaliamo un interessante documentario, il commento del regista su tutto il film, fortunatamente sottotitolato in italiano, ma ci sono anche scene omesse dal montaggio finale. E andiamo invece in campo di recensioni con un film della stagione appena passata, un film che tra l'altro mette nel cast un paio di attori di quelli che piacciono molto di questa nuova ondata della commedia americana brillante, Adam Sandler e Jennifer Aniston per Mia voglia di far finta. Sentiamo la clip. Buongiorno. Non ho avuto tempo di prenotare, ma mi servono due camere, per favore. Oh, certo. Purtroppo le suite sono le uniche che ci sono rimaste. Porca miseria. La Waldorf Astoria a $8,000 a notte e la presidenziale a $12,000. $12,000 a notte? Mm-hmm. I Rolling Stones vengono a suonarmi una serenata la sera. Ma cosa dici? Mm-hmm. Perché così tanto? Sono di pelle di panda. Questa l'ho già usata un'altra volta. Rimasto scottato quando ancora giovane stava per portare all'altare una donna fedifraga interessata solo ai suoi soldi, Danny, ora noto chirurgo plastico a Beverly Hills, sfruttando la fede del matrimonio mai avvenuto, rimorchia alla grande. Colpito dalla procace bellezza della bella Palmer, fa di tutto per simulare di essere un uomo divorziato, ma le circostanze lo spingeranno ad accumulare una montagna di fandonie prima di rendersi conto di quanto cuore e sentimenti appartengano a un'altra donna. Ispirata a Fiore di Cactus del 69, la commedia di Dennis Dugan sa come divertire con garbo senza mai prestarsi a situazioni volgari. La Sonifice Home Entertainment, eccellente qualità video per il Blu-ray, da preferirsi al DVD, audio DTS alta risoluzione sia in italiano che per l'inglese. Tra gli extra, il commento per tutto il film del regista assieme a parte del cast sottotitolato in italiano, ci sono scene eliminate e vari focus sulla produzione. Una commedia degli equivoci e della simulazione, come appunto capita spesso in questi ultimi tempi. Andiamo avanti e spostiamoci in atmosfera decisamente horror con La notte dei morti viventi. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili che, a detta dei testimoni, hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance. Recatasi col fratello Johnny presso il cimitero per portare omaggio al padre, la giovane Barbara fugge dopo che il fratello ci ha lasciato la pelle nella colluttazione con un misterioso individuo. Troverà rifugio in una casetta abbandonata in un bosco presto raggiunta da un uomo di colore, ma i due scopriranno di non essere soli all'interno, così come si renderanno conto di essere circondati da un'orda sempre più famelica di quelli che scopriranno essere morti viventi affamati di carne umana. Con pochissimi mezzi nel 1968 il maestro Giorgio Romero realizzava un'opera destinata a cambiare il genere horror, film che incassò nel mondo qualcosa come $30 milioni a fronte di una spesa inferiore a $200,000, denaro che però non andò mai in tasca né a Romero né ai produttori, considerato di pubblico dominio il film in quanto per errore venne omesso il copyright sulla pellicola in seguito alla modifica del titolo del film. Da Minerva Home Video, l'edizione restaurata in Blu-ray per questo cult horror, due ottime tracce monofoniche italiane e inglese al massimo della qualità audio possibile. Tra gli extra un'intervista al compositore Claudio Simonetti e un interessantissimo documentario di 83 minuti che ripercorre l'intera produzione dell'opera. E beh, questo è un altro film che non può mancare in videoteca. La notte dei morti viventi, ancora commedia, un altro salto tematico. Questa volta è la Londra degli anni 60 che fa da sfondo a Prick Up, l'importanza di essere Joe. Non riesco a capire la mia vita. Sono figlio unico. Ho perso mio padre e mia madre. All'età di 20 anni stavo già diventando calvo. Sono omosessuale. Ebbene, tutti questi fattori sommati con le mie sofferenze avrebbero dovuto fare di me un meraviglioso artista. Era come se mi avessero impresso un marchio. Ero stato programmato per diventare uno scrittore o un commediografo. Ma io sono fallito mentre tu hai avuto successo! Il Il 18enne Joe Horton conosce nel 1951 Kenneth Halliwell all'Accademia Londinese d'Arte Drammatica. I due uomini si piacciono subito e decidono di vivere assieme. Kenneth sogna di diventare scrittore e drammaturgo di successo, ma fallisce miseramente. Sarà Joe a guadagnare fama e notorietà a partire da un radiodramma inviato alla BBC mentre si trova in carcere. L'inizio della carriera con una serie di notevoli commedie nere segna anche il declino del rapporto tra i due, destinato a un tragico epilogo. Storia romanzata del vero drammaturgo John Kingsley Horton, assassinato a soli 34 anni dal geloso compagno poi suicidatosi. Quinto lungometraggio per scoprire, uno Stephen Frears prima in maniera, che nel 1987 vantava già un cospicuo curriculum di film per la televisione. E da Pulp Video il DVD di dignitosa qualità, che risente solo in parte del tempo. C'è una traccia Dolby Digital in italiano, sia due canali che multicanale, ma c'è anche quella originale in inglese. Contrariamente a quanto segnalato sulla fascetta, sono assenti le scene inedite e presente solo il trailer. E allora, grazie a Claudio Poffi per le recensioni di questa settimana in questa estate dell'on video. Appuntamento a fra 7 giorni, Claudio. Ciao, a presto. Ed è arrivato il momento di chiudere la nostra trasmissione. La Rosa Purpurea si ferma qui, torna sabato e domenica prossima negli orari usuali, dopo la buffata di grandi interviste di questa estate, quindi il sabato alle 18, la domenica in replica alle 15. Sarà una settimana importante, la settimana che immette alla Mostra del Cinema di Venezia, la settimana nella quale arrivano 7-8 nuovi film in sala. Cercheremo di presentarvene davvero molti, moltissimi, con come sempre molte interviste esclusive. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.